Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sono felice di annunciarti, ma questo tu già lo sai, adesso facciamo tutta la consueta pantomima di ingresso del programma, che ho fatto pace con tutti i tassisti d'Italia, o quantomeno con uno di Roma. Merito di un tassista romano che ringraziamo pubblicamente. E che salutiamo con simpatia. Sì, Cooperativa Samarcanda, il taxi, se ci ricordiamo correttamente la macchina, ha la sigla Zaffiro 7. Sì. O Zaffiro, perché controllato si può dire in entrambi i modi. No, perché sennò sai che partiva adesso l'embolo anche della corretta pronuncia. San Internet mi dice che si può pronunciare Dottor sia alla Google. Greca Zaffiro che alla latina Zaffiro. Comunque Zaffiro o Zaffiro 7, sì. Che non solo per smentire le malignità tue ricorrenti, guarda Deborah, che sei veramente un infame. I taxi non fanno pagare con il POS, non fanno pagare col banco. Ma certo, non solo perché tu infatti prima pagavi sempre con la carta, quando lo proponevi volentieri, subito loro a fine affermavano. Corsa, questo tassista gentilissimo, giovane, ci ha detto: volete pagare con il POS, volete pagare con il contante? E tu hai chiesto, ma addirittura vedo una scritta Satispay, ma forse dovevo avvisare prima. Io non volevo prima. Fare pubblicità, quindi fai tutto tu bene. No, beh, Satispay si sa che io sono prezzolato da Satispay per nominarli, perché sennò sai, nessuno li conosce. Esatto. No, è che un'altra volta, chiedendo di poter pagare con questa modalità flash di pagamento con il telefono, un tassista mi ha detto no, lei avrebbe dovuto avvisare prima, quando ha fatto la chiamata, che voleva pagare così, io adesso non posso. E il signor Zaffiro 7 di ieri mi ha detto: ma stiamo scherzando, vuole pagare con Satispay? Io sì, mi stavo mettendo a piangere e ho pagato con Satispay, sono ancora qua tremolante di emozione. Confermo, per quello confermo che è accaduto ieri. Deborah si è emozionata, lo vorrei confermare a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici in ascolto, ma soprattutto ai tassisti e alle tassiste, che spesso sono state da te attaccati e attaccate. Guarda però... che è veramente fuori di testa stamattina questo uomo, perché tu invece a microfoni spenti sei tenero, vero? No, io guarda, siccome prendo spesso il taxi, sono prudente, diciamo così, ecco, preferisco essere prudente. Peraltro aggiungo a tutto questo che, ad onor del vero, ad un certo punto il signore in questione, tassista, aveva anche riconosciuto le nostre voci, anche quando abbiamo attivato il viva voce, stavamo conversando con Luigi Gabriele, che era in tutt'altra parte d'Italia, ma stamattina ci ha raggiunto a Roma. Luigi, buongiorno e ben trovato. Ma buongiorno dallo studio Radio 24 di Piazza Indipendenza, Roma, signori. Non vedeva l'ora di farlo. Lo sognava da tempo. Vuoi fare una dedica in diretta anche? Hai una non canzone canzoni, da dedicare però. A qualcuno? Dedicaci una canzone, già che signori, ci sei. Non è Sanremo, ma siamo a Roma. Ecco. Abbiamo portato i milanesi finalmente a Roma a parlare. No, i milanesi, di loro malgrado, sono dovuti rimanere a Roma anche oggi, ma insomma, per fortuna che abbiamo la disponibilità degli studi di Radio 24, dove possiamo tranquillamente condurre il programma. Allora, Luigi Gabriele, per chi non lo conoscesse, editor di consumerismo.it, perché? Perché vi abbiamo promesso che oggi parleremo tutta la settimana delle bollette a 28 giorni e dei conseguenti rimborsi, ristori, o insomma quello che è stato. Li ho portati io i rimborsi, eh? Ecco. Sì, per tutti, per tutta la popolazione italiana. Sì. Allora, cercheremo anche di fare un pochino di così chiarimenti per chi si intende di normativa, di giurisprudenza, perché effettivamente è diventata una charade incatenata questa vicenda dei rimborsi tra norme, commi bis, Roscianellum e così via, poi decisioni dei giudici, delle autorità. L'originale disposizione del Consiglio di Stato nella pronuncia dell'estate scorsa, ma i cui dettagli sono stati resi noti ultimamente, che hanno veramente fatto molto divertire il mondo legale. E allora avremo anche il supporto prezioso di una avvocata, sì, o avvocato, una signora avvocato, come preferite. Conoscendola le va benissimo avvocato. Emanuela Bertucci, legale di ADUC. Sì. Tutto naturalmente dopo il nostro consueto giornale del risparmio. Allora intanto vi ricordiamo i numeri con i quali potete segnalarci ogni malefatta o benefatta, ecco, delle compagnie telefoniche. Perché poi sono io, vero, quella a cui staccano i collegamenti, perché tu utilizzando il termine malefatta ci sei andato, no, giù ho piano. Detto malefatta o benefatta, perché magari qualche cosa è stato anche fatto bene, non possiamo escluderlo a priori. 800240024 se volete intervenire in diretta, 349-238-6666 se volete raggiungerci con messaggi SMS, ma financo WhatsApp, mi verrebbe da dire. Sì, assolutamente. Marco Lombardo presidia il WhatsApp da Milano e ci inoltra eventualmente appunto le richieste degli ascoltatori, ma lui raccoglie soprattutto i messaggi vocali e poi arricchisce il nostro programma con queste divertenti esternazioni che in questo periodo per la verità sono un po' monotematici, perché sull'autovelox ne abbiamo sentite di ogni, tanto che lunedì si rende necessaria la puntata. Abbiamo scomodato massimi esperti, esperti di valore mondiale come al solito, ne parliamo lunedì. Ne approfitto per fare un altro promo, cerchiamo di proporvi anche una puntata sul bonus facciate, ce l'avete scritto in tanti, è una delle novità fiscali dell'anno. E allora nella prossima settimana, nel corso della settimana, cercheremo di proporvi anche una puntata su questo. Quello che non potete sentire in diretta, naturalmente, è sempre in podcast, è sempre su file, disponibile nel nostro sito www.radio24.it. E detto tutto questo, lancerei il giornale radio del risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Qui la dedica ci starebbe bene. A chi la dedichiamo, Rumore? Non so, a tutti i gestori di bar rumorosi. C'è stato un intervento della Cassazione che potrebbe essere un po' rumoroso, cioè potrebbe fare rumore, perché ha detto che non sempre è sufficiente rispettare le soglie del rumore, quelle stabilite dalla legge 447 del 95, perché... Così ha spiegato la Cassazione nella sua sentenza 2757 di quest'anno, del 2020, anche se le emissioni acustiche rientrano nei limiti normativi, possono comunque risultare intollerabili per le proprietà vicine. E con questa motivazione i giudici hanno respinto il ricorso della società immobiliare proprietaria del locale, che era stata destinataria di un'ordinanza cautelare che l'aveva condannata a una serie di interventi per ridurre i rumori molesti. Erano rumori entro le soglie, ma la Cassazione ha detto non basta il semplice rispetto delle soglie, il rumore può essere lo stesso non tollerabile. Io non so se è sempre stato così, magari tu che hai questa lunga militanza, norme e tributi te lo ricordi sicuramente meglio di me, ma dall'inizio dell'anno, di qualunque anno, la Cassazione è sempre stata così attiva, perché ci ha reso disponibili una marea di argomenti da affrontare nel nostro programma. Diciamo che parte sempre col botto l'anno per, sì, la Suprema Corte. Ma la Cassazione lavora parecchio tutto l'anno, devo dire, perché arrivano a migliaia e migliaia di sentenze, e occupandosi un po' di tutto tra ordinanze e sentenze, molto va effettivamente fino a questo terzo grado, e poi danno anche delle indicazioni interpretative quasi della legge, perché come sai non decidono nel merito ma proprio sull'applicazione corretta della normativa, e quindi poi diventano sempre spunti utili che tu puoi trovare tutti nelle pagine di norme e tributi da leggere ogni mattina religiosamente. Vedrai che ti sentirai anche meglio dal punto di vista della salute. Guarda, mi sono sentita tanto bene soprattutto quando la Cassazione ha emesso la famosa sentenza 11504 del 10 maggio del 2017, che è l'altro mio grande cavallo di battaglia, ed è la famosa sentenza con la quale si sono rivisitati e corretti criteri per stabilire l'assegno di mantenimento, l'assegno divorzile, cancellando il tenore di vita. Perché ritorniamo di nuovo su questo tema? Perché pare, caro Mauro, che il cavaliere Silvio, sì, Berlusconi e Veronica Lario, pare che hanno raggiunto un accordo ratificato dal Tribunale di Monza che mette definitivamente appunto la parola fine alla battaglia legale sui profili economici del loro divorzio, chiudendo tutte le pendenze che erano un filino milionarie. Sì, diciamo che è quasi un accordo tra due piccole e medie imprese per l'entità delle cifre in gioco. Perché, giusto Deborah, quanto era quel... Allora, dunque, contribus? Lui inizialmente, il Tribunale di Milano, inizialmente aveva stabilito che alla signora Lario dovesse essere riconosciuto un assegno mensile di 1.400.000 euro. Dopodiché, appunto, ovviamente per effetto della famosa sentenza Grilli, quella che ho citato prima, dalla Corte di Cassazione, il Cavaliere aveva chiesto di rivedere questo importo, chiedendo addirittura che la Lario restituisse tutto quanto versato nel frattempo, qualcosa come 46 milioni di euro. E quindi sono andati avanti di gradino per gradino fino a quando praticamente sono arrivati all'accordo ultimo, del quale appunto vi abbiamo dato notizia. Silvio Berlusconi rinuncia a chiedere i 46 milioni di euro che l'ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione che aveva confermato la revoca dell'assegno di divorzio. La signora Lario, dal canto suo, ha rinunciato a chiedere invece 18 milioni di euro che erano maturati appunto nel frattempo, quando lui aveva interrotto il versamento dell'assegno mensile. Pace fatta, insomma, patta così. E spese legali compensate, lo diciamo a beneficio degli avvocati in ascolto, perché si saranno chiesti sì, esatto, ma qui tutto questo che le paga? Che parcelle? Ognuno paga parcelle la sua, che come viaggiano? Funziona? Cos'è la paga, la spesa legale compensata? Cioè, tra le parti che si distribuiscono le spese. Risulta dalle cronache che la signora Lario contribuirà in parte a pagare le spese legali, quindi forse una parte maggiore sarà invece a carico di Silvio Berlusconi. Insomma, da quella sentenza lì, cari miei, molte cose sono cambiate. Invitiamo proprio anche a come dire, gestire con molta prudenza le cause di separazione, perché soprattutto per le parti più deboli economicamente, anche se sono particolarmente deboli, non è detto che l'assegno di mantenimento che un giudice stabilisce sia esattamente quello che si quantifica nella propria testa, perché in genere invece arrivano molte sorprese in negativo proprio per le disposizioni dei tribunali. Quale altra notizia diamo prima di andare al tema di oggi? Conto alla rovescia. Ottimo. Perché domenica 16 febbraio entra in vigore sostanzialmente la nuova normativa sull'RC auto familiare, l'RC auto di famiglia, quella norma che consentirà di poter iscrivere anche un altro mezzo sulla base della classe di merito migliore della famiglia, magari però classe di merito ottenuta con tutt'altro veicolo. Allora, secondo una ricerca che è stata commissionata da Facile.it a EMAP Research, il 14,1% di chi ha risposto non ha capito come funziona questa nuova norma. Tra l'altro, probabilmente serviranno ancora le istruzioni applicative. Si parte, cioè entra in vigore formalmente domenica 16 febbraio. Sarà curioso parlarne, cara Debora, già forse da lunedì 17, così per capire se questa norma ha una efficacia immediata e come va declinata. E soprattutto, appunto, se le compagnie di assicurazione sono pronte con l'erogazione, diciamo, se riusciranno a dare immediatamente la possibilità ai propri clienti di sottoscrivere polizze con questa formulazione. Allora, prima di entrare nel mondo di nuovo della bolletta ex a 28 giorni, ripristinata a 30, vediamo un po' lo sportello reclami oggi. Che cosa denuncia? Dillo a due di denari. Io per dillo a due di denari vorrei fare una considerazione. Dal 2020 è passata la normativa che stabilisce che se adesso faccio un trattamento sanitario, per esempio col mio fisioterapeuta per problemi alla schiena e quant'altro, se io pago in contanti e lui mi fa regolare fattura, quella non la posso detrarre fiscalmente. Posso detrarla solo se pago con il POS, con pagamento tracciato. Mi spiegate qual è la motivazione di tutto ciò? Grazie. Una chiosa piccolina. Vai. Diciamo che la motivazione è non indurre in tentazione alcuno. Alla dimenticanza, grazie Debora. Cioè, qualcuno potrebbe dimenticarsi di segnalare questo tipo di introiti all'Agenzia delle Entrate, che poi si dispiace. E si dispiacciono un po' anche quelli invece che non si dimenticano, e quindi si trovano un po' gravati anche da, esatto, quelli che si dimenticano. Però attenzione, il decreto legge cosiddetto mille proroghe, in corso di conversione definitiva in legge, vorrebbe spostare l'applicazione di questa norma al 1° di aprile, quindi abbiamo per i primi tre mesi ieri, sì. Se questa modifica sarà confermata, è un pochino traballante perché c'è un problema di coperture, però se questa modifica sarà confermata, per i primi tre mesi non sarà così necessario, così cogente, dover ricorrere a un pagamento tracciabile. Ottimo, allora direi, visto che qua già gli ascoltatori scalpitano, di partire con il tema che in realtà ormai puntualmente, ricorrentemente e costantemente affrontiamo da tempo, ma oggi di nuovo si rende necessario ritornarci. Peraltro abbiamo anche delle posizioni di alcune delle compagnie che avevamo invitato a candidarsi spontaneamente ad intervenire nel corso del nostro programma. Spontaneamente non è arrivato niente, un paio ne abbiamo cercate, abbiamo negoziato un po' per una loro partecipazione che non si è resa disponibile, però delle precisazioni le abbiamo, però tutto questo va introdotto come sempre con un'adeguata sigla. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto. Sì, vabbè che è Sanremo e scomodiamo delle grandi voci, si rende anche oggi di nuovo necessaria la spiegazione sul perché abbiamo... Perché mettiamo tintarella di luna quando parliamo delle bollette? Allora, lo mettiamo perché le bollette, tutto questo pasticcio è sorto per le bollette modificate a 28 giorni. 28 giorni è anche la durata delle fasi di un ciclo completo della luna e allora... Tutte le fasi lunari si completano in 28 giorni, quindi da questo tintarella di luna. È una cosa che abbiamo studiato con una certa perversione, lo devo ammettere, sì, insieme a Marco Lombardo. Siamo proprio alla canna del gas, oserei dire, tanto per andarci giù piano come al solito. E allora non sono qua per ascoltare le nostre canzoni, ma ancora per puntualizzare i termini di questa vicenda, che in realtà si è conclusa anche in maniera positiva per molti ascoltatori. Già alcuni ci stanno segnalando che loro il rimborso di quanto versato in più quando momentaneamente l'addebito delle bollette era passato da 30 a 28 giorni, quindi molti sono stati già restituiti questi soldi, molti invece ancora aspettano e sono un po' indispettiti del fatto che le compagnie si ostinano a proporre soluzioni alternative. Il punto della settimana qual è stato? Il dispositivo della decisione del Consiglio di Stato, che in realtà era già stata presa la scorsa estate, Mauro, no? Sì, allora adesso io mi faccio aiutare poi naturalmente da... Sì, perché abbiamo perso il filo. Un legale, perché... No, ma la vicenda si è complicata, perché sostanzialmente, come hai ricordato Deborah, c'è stata una decisione abbastanza unilaterale delle compagnie telefoniche, hanno deciso di fatturare a 28 giorni. Questo naturalmente trasforma l'anno da 12 a 13 mensilità. E con questa modifica così per così dire astronomica si ottiene una bolletta in più. Il rincaro è di un poco superiore all'8%, che magari 8,7, sono pochi euro, magari spesi singolarmente, ma poi nella totalità degli utenti, certo, invece può essere una cifra importante. Interviene una normativa a fine di quello stesso anno che dice: no, non si può fare, dovete tornare a fatturare a 30 giorni. Quindi c'era già stata una decisione delle autorità di controllo che avevano detto: guardate che questo procedimento non va bene. C'è stata poi una successiva decisione che ha detto: guardate che voi avete fatto cartello. Li hanno accusati di aver fatto cartello anticoncorrenziale. Quindi insomma, tra tornate ai 30 giorni, ridate i soldi agli utenti, non potete farlo, avete fatto cartello, e poi ancora successivamente altro monito: attenzione, perché nel restituire i soldi avete fatto adottato dei procedimenti non sufficientemente chiari, quindi vi sanzioniamo. Insomma, in tutto questo pasticcio io devo dire la verità, mi sono un po' perso. E allora, non sembra, però sembra che tu abbia le idee molto chiare. No, io mi sono assolutamente perso. E allora non so se abbiamo già in collegamento l'avvocato Emanuela Bertucci. Così di sì. Ecco, allora le chiedo un conforto: a che punto siamo? Ce l'abbiamo fatta, cioè è tutto chiaro, le compagnie telefoniche avranno delle sanzioni da pagare per poca chiarezza nella restituzione del denaro, i consumatori riavranno il loro denaro, o se preferiscono altra forma di ristoro, o i legali intravedono no, degli spiragli di scappatoia di nuovo per le compagnie di telecomunicazioni. Avvocato Bertucci. Buongiorno a tutti. Sì, la ricostruzione che avete fatto in studio è sicuramente corretta. Questa sentenza, fra l'altro una sentenza del Consiglio di Stato molto lunga, che pone, immagino, la parola fine a questa vicenda. La sentenza è stata emessa solo nei confronti di un gestore, il gestore Vodafone. Seguiranno ipotizzabilmente, immaginabilmente, anche le sentenze, credo speculari, rispetto agli altri gestori che avevano fatto appello. E fondamentalmente questa sentenza, che ha anche degli aspetti poetici di lirismo, dice: bene, potete rimborsare economicamente, potete proporre compensazioni alternative, ma sicuramente quello che dovete fare nei confronti di tutti gli utenti che si sono ritrovati la bolletta a 28 giorni, a prescindere dalla loro richiesta, ed è questo un passaggio molto importante, perché fino ad ora gli utenti sono stati rimborsati quando si sono attivati. Nei confronti di tutti dovete praticare una restituzione che deve avvenire posticipando una bolletta. Ad esempio, avete utilizzato la fatturazione a 28 giorni per un anno? Dovrete restituire un anno di servizio saltando una fattura. E questa è una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, immediatamente esecutiva, quindi plausibilmente, intanto per i clienti Vodafone, poi dovremo attendere le altre sentenze se i gestori non decidono, senta come sono Alice nel Paese delle Meraviglie, di farlo spontaneamente. Già dalla prossima bolletta i consumatori dovrebbero ricevere la restituzione di quei giorni che gli sono stati sottratti. Chiaramente questo provvedimento non si applica a chi non è più con quel gestore, Vodafone in questo caso, perché chi è migrato ad altro gestore dovrà chiedere il rimborso economico. Esatto, perché diciamo un po' che adesso le domande anche da parte degli ascoltatori arrivano soprattutto da coloro che nel frattempo hanno cambiato operatore e si chiedono se possono lo stesso aver diritto al risarcimento per il precedente abbonamento, per il precedente contratto. Ma certamente che ne hanno diritto, come ce lo avevano sin dall'inizio di questa vicenda, perché questa lunga storia, che è durata alla fine quasi 3 anni, si è trasformata in un processificio, cioè ogni delibera dell'autorità della GCOM veniva contrastata, per carità, legittimo farlo da parte degli operatori, con un ricorso al TAR, e quindi si è creata una selva di ricorsi al TAR, appelli al Consiglio di Stato, alle volte anche incrociati fra di loro, tanto che un giudice ha dovuto aspettare che l'altro decidesse per poter arrivare alla fine di questa storia. Il tema fondamentale, a mio avviso, è questo, e lo ha ben centrato il Consiglio di Stato con questa definizione che ha tirato fuori dal cilindro di consumatore apatico. Cioè, dice il Consiglio di Stato, è chiaro che il consumatore è soggetto in questo tipo di vicende due volte debole. Una volta perché ha una sottrazione di un servizio o un sovrapprezzo ingiustificato e illegittimo, ma da un'altra parte perché il rimborso degli importi che deve ricevere è così basso, si parla di importi che vanno dai 20 ai 60 euro più o meno, che ovviamente non si attiva in giudizio o davanti ai Corecom per poterne avere la restituzione, perché la spesa non vale la resa, già soltanto perdere una giornata di lavoro per poter andare al Corecom probabilmente equivale al rimborso, ed è questa la parte molle del ventre della normativa che in qualche modo dovremo trovare in futuro il modo di contrastare, cioè questa vicenda che io spero non si riverifichi più nella nostra storia, è un unicum per come tutte le autorità di public enforcement, cioè l'antitrust, addirittura anche il garante privacy con il telemarketing, l'AGCOM, hanno strenuamente difeso per quello che potevano fare il diritto dei consumatori. E appunto ne è venuta fuori una selva di giudizi. Dobbiamo trovare e pensare, e poi se avremo tempo volentieri ne potremo parlare, quali possono essere i modi per evitare che queste cose si ripetano. Sì, certo. Perché poi appunto si può prestare ovviamente, ma anche giustamente da un certo punto di vista, ma poi diventa un processificio, come diceva l'avvocato, a delle tattiche dilatorie da parte di chi poi non deve far altro alla fine che rimborsare. Si tratta di rendersi trasparenti e disponibili a queste modalità, ma di tutto questo torniamo a parlare tra un po', perché sì, cara esatto, Deborah, sì esatto, dobbiamo ancora far così, stare un po' nella camera d'attesa a Luigi Gabriele, ma esatto, perché prima gli facciamo ci sono... sparare tutte le sue cartucce dopo. Le borse, tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricconi. Due di denari. Noi di Samarcanda siamo diversi, finalmente avete capito qualche cosa, quindi sono contenta. Io sono Avario 22 e Riccardo Zaffiro 7 è un amore. Ciao. Deborah Rosciani, purtroppo sei rimasta a Roma? Dovresti essere felice, a Roma è Roma. Io col mio operatore telefonico ho concordato il rimborso della cifra che mi spetta per la differenza tra 28 giorni e 30 giorni della fatturazione direttamente in bolletta e non ho avuto alcun problema, almeno spero, perché me li devono mandare. Buongiorno, ma se nel frattempo ho cambiato operatore telefonico, come riprendo i soldi che mi dovrebbero dare? Ottimo, allora qua abbiamo una bella carrellata della spesa. Salutiamo Riccardo. Sì. Ottimo. Zaffiro 7. Esatto, ho detto purtroppo siamo dovuti rimanere a Roma solo per le motivazioni, esatto, ferroviario, ovviamente. Perché noi siamo qua molto molto volentieri, abbiamo un ottimo studio, un'ottima assistenza, per cui non ci manca nulla. Terzo, Luigi Gabriele. Allora, un ascoltatore molto contento della modalità con cui la compagnia ha scelto di rimborsarlo, peccato che ancora non abbia visto nulla, per cui vedremo se sarà giustificata o questo suo entusiasmo. Perché ha cambiato operatore? Era rimasto in sospeso anche questo tema con Emanuela Bertucci. In realtà avrebbe tutto il diritto di vedersi restituite le cifre in ballo, ma come fare? Allora, voi che cosa suggerite? Soprattutto Luigi ci davi una percentuale piuttosto inquietante prima. 90%, che è la percentuale di tutti quei consumatori che in teoria avrebbero diritto a questo rimborso, ma che magari non si sono attivati, non sanno cosa fare. Qual è la situazione? La delibera dell'antitrust che ha sanzionato, diciamo con uno sconto del 70%, lo sapevate? I 228 milioni sanzionati dall'antitrust soltanto nel 28 di gennaio sono stati ridotti del 70%, perché in realtà erano 808 milioni. Poi è stato fatto un 5% di sconto, che è una prassi, e il 70% di sconto è stato fatto non perché pagano entro 5 giorni come le multe degli automobilisti, ma perché in realtà l'antitrust si è sentita in qualche modo di doversi quasi passare, giustificare un po' per quello che stava facendo, perché altrimenti i bilanci in realtà questa volta sarebbero stati realmente compromessi. Quindi parliamo di 800 milioni che sono parametrati sostanzialmente al fatturato, giusto, perché normalmente, esatto, questi sanzioni sono parametrate, esatto, al fatturato. Il 10%. E ricordiamolo, sono 14.756.000 euro per Fastweb, 114.383 per TIM, 59.970 per Vodafone, Wind 38.973. E questi soldi non contemplano però i famosi il surplus preso tra i 28 giorni e i 30 giorni di fatturazione. Questo è soltanto quello che loro hanno fatto per 4 mesi successivi, esattamente quando hanno fatto il repricing, no? Hanno come fatto si dice? Un bellissimo repricing, tutti quanti si sono messi d'accordo e delle bellissime mail che trovate allegate all'istruttoria dell'antitrust, palesemente le aziende parlavano tra di loro e l'antitrust si è spinta a dire che hanno posto in essere un'intesa segreta, unica, complessa e continuativa, finalizzata a aumentare dell'8.6% i prezzi e quindi sostanzialmente a rimanere invariata, a prendere per fessi i consumatori che erano stati oggetto già della fatturazione. Precisiamo che non è Luigi Gabriele che, come si dice in gergo calcistico, la tocca piano, sono proprio le parole utilizzate dall'antitrust. Esatto. Quindi effettivamente questa vicenda, Luigi, è diventata partendo da una decisione un po' unilaterale, passiamo da 30 a 28 giorni perché di sì, e poi dobbiamo tornare indietro, ma allora non ci torniamo, in realtà mettiamo in atto delle condotte per mantenere comunque lo stesso importo, non restituiamo ma ricorriamo al TAR, al Consiglio di Stato. Insomma, è diventato un pasticcio che forse non valeva neanche tutto esatto. Il disturbo. Esatto, ma possibile che siano così sprovvedute dal pensare che potesse andare tutto liscio, che nessuno si accorgesse? Guarda, io leggendo questa istruttoria, e tra l'altro sono 120 pagine, fatemi ringraziare. Guarda, pensavo che fosse Mauro Meazza il depravato della situazione, ma tu hai pure dei seri problemi. L'antitrust, perché mi dà questa lettura settimanale di 120 pagine, dove racconta esattamente che il tutto, e stiamo per festeggiare il quinto anno, è iniziato a marzo del 2015, signori, quando man mano i vari operatori hanno iniziato a modificare la loro fatturazione, passando da 30 a 28, prima al mobile, prima ai cosiddetti prospect, ovvero coloro che prendevano nel momento in cui entravano nei nuovi operatori. Nuovi poi contratti. I consumer based, che sarebbero coloro che già erano in essere, e poi man mano sono arrivati anche al domestico e così via. E questo è successo da marzo del 2015 fino a maggio del 2017. A maggio del 2017 si sono dovuti fermare perché era stata montata un'indignazione così ampia, dove nonostante dalle mail che si evincono, leggete, ripeto, il provvedimento dell'antitrust è pubblico, le mail tra amministratori delegati, tra componenti delle varie aziende per vari ruoli istituzionali e così via, dicevano espressamente che cioè era evidente che loro dicevano no, dobbiamo resistere, non dovete cedere, no, se lo fa prima lui non lo possono fare anche io, e chiaramente identificavano proprio il profilo nel quale si andavano a muovere, era un profilo in cui tutti insieme decidevano cosa fare. E l'indignazione pubblica, grazie ai media soprattutto, parte delle associazioni consumatori, ci ha portato a renderci conto per un periodo che ci avevano aumentato i prezzi. E loro non volevano accettare questo fatto che l'Agcom gli aveva detto non puoi farlo, che l'opinione pubblica era indignata, che è arrivata una legge dello Stato a dover bloccare la possibilità di fatturare a 28 giorni, a meno il di 30 giorni. Quello che abbiamo chiamato il Roscianello. Esatto, perché è nato qui, diciamolo chiaramente. Sì, è nato c'è stata una parlamentare, Alessia Morani, che ha portato avanti il tutto, vorrei dire. Una delle primissime voci è stata appunto Deborah, che nel corso del... Ma cos'è questa estate? In piena estate, quindi luglio. Ovviamente un altro momento in cui nessuno si accorge di quello che succede, perché siamo tutti... Erano qui, perché al mare. Poi anche il timing con cui queste operazioni vengono portate avanti non è casuale, no? Nei momenti un po' come quando arriva la MIFID del 5 agosto e nessuno guarda la comunicazione sulla trasparenza dei costi sostenuti dagli investitori che viene mandata magari ad agosto, così uno non è che poi ha il tempo quando torna a casa di ritrovarsela tra le carte. Però non vorrei che restasse in sospeso la cosa di chi ha cambiato operatore, perché magari uno si è pure scocciato, dice vabbè allora io adesso me ne vado da un altro. Vabbè, ammesso che fosse più o meno corretto, però magari rientrava già post Roscianellum, cioè post intervento normativo, e quindi già poteva giovarsi di una fatturazione a 30 giorni. Ma che fa con il vecchio gestore? Il problema serio di tutto questo è che in realtà sin dal primo momento l'Agcom gli ha detto voi dovete restituirlo attraverso un allungamento della fatturazione, quindi nel prossimo ciclo di fatturazione, ma loro hanno iniziato a fare resistenza esattamente su questo. È passato talmente tanto tempo che molti cittadini, sia del fisso che del mobile, ma soprattutto parliamo del fisso in cui è agganciato anche il mobile, perché questo è l'oggetto in cui si può chiedere il rimborso, hanno cambiato operatore, quindi il consumatore adesso è tenuto in qualche modo a fare un'istanza formale, cioè a chiedere al proprio operatore. Io mi voglio appellare a quanto deciso sino a questo momento dall'Agcom e poi dalla legge dello Stato, vorrei riavere indietro il denaro. Tutti gli operatori, devo dire, che hanno messo in condizione il consumatore di poterlo fare autonomamente, ma se si fanno aiutare dalle associazioni dei consumatori forse è un po' meglio, perché come al solito se la moral suasion in questo caso è un po' più efficace. Devo dire che ci stanno scrivendo anche alcuni ascoltatori che paradossalmente, nonostante stiamo parlando da 4 anni di questa vicenda, si accorgono ora di non essersi attivati su nulla e quindi ci chiedono e allora alla fine è automatico o no? Cosa devo fare? È sempre bene assumere un'iniziativa individuale, Luigi? Assumere un'iniziativa individuale e quindi scaricando il modulo, magari la compagnia ci sono dei casi in cui lo mette e lo rende disponibile, si va sul sito, si può chiamare il call center, magari i più disponibili ci danno una mano. C'era anche un'altra modalità che era uscita in un'altra trasmissione, Concilia Web? No, il Concilia Web serve per risolvere la controversia nel caso in cui la compagnia non voglia restituire il denaro. Allora, prima cosa, se siete in grado di farli da sole, andate sul sito della vostra compagnia o dell'operatore in cui in quel periodo siete stati oggetto di rifatturazione. Altrimenti andate sul sito di un'associazione consumatori, non so, la di Consum, e scaricate, ci sono delle procedure, molte associazioni lo fanno gratuitamente e quindi potete farvi supportare attraverso di loro con l'invio della modulistica che serve, certo, verso l'operatore. E magari date anche qualche occhiata, qualche vecchia bolletta nel caso in cui la restituzione sia arrivata in automatico, ma essendo stata magari poca cosa non ve ne siete accorta, forse spalmata su più bollette, non lo so, e magari può essere successo. Guarda, solleviamo lo sguardo da queste cose così Luigi tristi. Ti devi raccogliere in preghiera adesso un attimo, perché arriva il momento oggi... poetico. Mica solo Benigni a Sanremo, e qua io ce ne ho una settimana, c'ho il mio Benigni personalissimo. Il venerdì noi dedichiamo spesso spazio al sonetto sui temi, purché sia su temi appunto legati a Due di Denari. Lo so bene. Ho ricevuto e sono veramente felice. È vero, si è appassionato, è andato, sì, a cercare tutto il curriculum di questo signore che ci ha scritto, che ha un curriculum peraltro impressionante. Allora, il professor Danilo Gasparini, occasionalmente anche nostro ascoltatore, ma purtroppo lui confessa di riuscire a seguirci solo in alcune giornate, non in tutte, è uno storico dell'alimentazione, docente all'Università di Padova, mi ha inviato un documento storico, non, io a volte scherzo, ma qui è tutto vero. È vero. Cioè, un sonetto che era stato prodotto da una contribuente, diciamo non contribuente, per giustificare, siamo nell'epoca della Repubblica Serenissima, della Repubblica di Venezia, la sua condizione, diciamo, di povertà, e quindi non poteva pagare tasse. Era una sorta era una sorta di autodichiarazione. Lei si dichiarava incapiente, ma con questi versi che vado a leggere, scusandomi perché la mia pronuncia del dialetto dell'epoca e della lingua dell'epoca non sarà ottimale, ma chiedo scusa a tutti quelli che se ne intendono. Signori, Maria, moglie del marino, per discargare la sua consienza, viene a voi con somma riverenzia per dimostrarvi il suo stato mischino. Ella si dice che soldo né quattrino in casa sua non fa residenzia e vive al mondo con gran penitenzia, filando sempre mai o lana o lino. 37 lire più ha de debito e sta in casa de Santa Maria Nuova e paga l'anno lire 10 de fito. E ancora in casa letto non si trova, e si talvolta sua suor non la idasse, saria mestier, signor, che la stentasse. Due di denari. Guarda che luna, guarda che mare. Buongiorno. Con una semplice PEC ho già ottenuto in ogni bolletta un parziale rimborso, grazie. Frattempo ho cambiato compagnia telefonica, però non trovo giusto che debba essere io a chiedere il rimborso, me lo dovrebbero mandare a casa automaticamente. Io non ho accettato le soluzioni compensative e ho già avuto il rimborso in bolletta da TIM. Nel desiderarti tanto. Avevo solo delle SIM e sulle SIM, solo sulla SIM, il mio operatore rifiuta di farmi rimborsi. Dice che se non ho anche una rete fissa non mi rimborsa niente. Se non avevo una rete fissa non mi rimborsa niente. Mi risulta, grazie. E aggiungiamo che c'è un altro operatore che sostiene di voler rifiutarsi di rimborsare perché il consumatore in questione, ce lo scrive al 349-238-6666, non ha fatto richiesta entro il mese di novembre 2019, così arbitrariamente, chissà perché è stato scelto quel mese. Ci metterei anche una domandina di un ascoltatore, Mauro, che ne sì, dici? Certo. Edoardo dalla provincia di Modena, rapidissimo, buongiorno, perché abbiamo 7 minuti di tempo prima di chiudere. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, permettetemi di dirvi, sono verde come un ramarro e che le associazioni dei consumatori si sono mosse troppo lentamente. Io avevo anche avuto dei contatti con Gabriele anni fa. È una cosa oscena e scandalosa quello che hanno fatto. Gabriele ha detto quello che volevo dire io e che vi dico adesso. Quell'oscenità dell'aumento dell'8-6% in contemporanea al rientro nelle bollettazioni mensile. È stata veramente una oscenità mostruosa da Telecom a Vodafone, da Fastweb a tutti quanti. Sono veramente dei ladri legalizzati. Edoardo è stato, come direbbe il nostro amico Antonello Orlando, adamantino. È chiarissimo quello che voleva rappresentarci. Abbiamo compreso, no, però rimangono in sospeso allora diverse cose. Questo termine del novembre 2019, niente, chiedo a Luigi Gabriele, ma anche all'avvocato Bertucci, se abbiamo ancora in linea. Avvocato Bertucci, non ha senso questo termine, ha fondamento. Il termine non ha assolutamente senso e quindi può palesemente essere ignorato. Chi ha ricevuto un rifiuto del genere può approfittare, aggiungo, per lucrare su questa vicenda. Cioè, ti chiedo, mi attivo, ti chiedo il rimborso, tu me lo rifiuti dicendomi che non te l'ho chiesto entro il novembre, di non ho capito bene quale anno, cosa 2019, allucinante. 2019, ma pari è qualunque fosse l'anno. Allora io ti chiamo davanti al Corecom e se non mi rispondi al reclamo successivo, mi devi poi, mi verrà riconosciuto un indennizzo, questo sì, automatico da Escorecom tramite la piattaforma di cui parlavate, Conciliar Web, che può arrivare fino a 300 euro. Cioè, il consumatore apatico, uno delle telefonate che abbiamo ascoltato prima, diceva: io lo vorrei automatico, non voglio attivarmi, che è più o meno il consumatore apatico di cui parlava il Consiglio di Stato. Cioè, ad oggi nel nostro ordinamento non è possibile gestire i rimborsi automaticamente, servirebbe una legge dello Stato, che fra l'altro potrebbe essere sicuramente molto utile, però ad oggi non è così. Quindi necessariamente il consumatore si deve attivare con una mail, con una PEC, con una raccomandata, e poi nel caso andare in conciliazione. E volevo, se possibile, ditemelo, dire tre cose. Sì. Una era questa del approfittare dei meccanismi di conciliazione, perché sono una via velocissima, decisamente molto più veloce rispetto alla giustizia, gratuita per l'utente, quindi non c'è motivo di non utilizzarli. Tra l'altro si fa tutto online, per cui non c'è neanche bisogno di spostarsi. E poi volevo fare una considerazione sul tema di cui parlavate prima, cioè la intesa restrittiva che i gestori hanno fatto quando poi sono stati costretti dal Roscianellum a tornare alla fatturazione mensile. Il Consiglio di Stato dice: occhio, perché secondo me era un'intesa restrittiva anche tutto quello che è avvenuto nel periodo precedente, ed infatti così compatte sono state le compagnie nel passare a 28 giorni che il consumatore che avesse deciso di fare recesso e di trovare un altro operatore non avrebbe trovato operatori fra i più importanti, quindi TIM, Wind3, Fastweb e Vodafone, che consentissero qualcosa di diverso. Anche questa è stata un'intesa restrittiva. Sì, sì. Ultima cosa. Tra l'altro aggiungo, Emanuela, se posso, scusami, che questa intesa restrittiva dagli atti dell'antitrust si è manifestata anche nel non far arrivare in tempo un comparatore istituzionale, il comparatore istituzionale di Agicom, che avrebbe potuto mettere in condizione il consumatore di cercare altri operatori, cosiddetti anche gli operatori virtuali, e ha impedito nel frattempo, a quanto pare, di comparare perfettamente e cogliere l'attenzione del momento della reputazione negativa avuta fino a quel momento dagli altri operatori italiani, per far entrare il famoso ultimo grande operatore che poi in pochissimo tempo ha preso milioni di consumatori. Quindi anche Agicom dovrebbe rendere disponibile ai consumatori un comparatore di offerte, sì, e tariffe, come l'IVAS lo fa per le assicurazioni, esatto, come ARERA lo fa per le bollette. È già disponibile, Disponibile, ma in quel periodo non era disponibile. Risulta agli atti dell'antitrust, quindi non lo dico io, che c'era un insieme di intese finalizzate, diciamo che non c'era l'entusiasmo allungare il tempo per far entrare in funzione questo comparatore, e quindi i consumatori non potevano comparare o cercare altri operatori. Allora, un altro ascoltatore magari al volissimo, Armando da Trento, in 5 secondi se ce la fa. Velocemente. La mia compagnia mi ha inviato 2 giorni fa un SMS dove mi danno un numero di telefono che io ho chiamato. Da questo numero di telefono in automatico mi hanno fatto la 2 soluzioni, uno di ritorno immediato e l'altro offrendomi qualcos'altro. E in pratica per le prossime 3 fatture verrà scalato il valore, mi hanno dato anche il valore. Quindi hanno rateizzato questa restituzione in tre bollette. Sono state loro a inviarmi il numero. Lei non ha voluto citare molto correttamente la compagnia, è la compagnia che effettivamente ha fatto anche una grande campagna pubblicitaria sui maggiori quotidiani, proprio per spiegare ai consumatori che si stavano attivando per poter risolvere al meglio questa incresciosa situazione nella quale sono incappati. Non la citiamo, ma molti avranno visto, perché si sono comprati delle gran pagine appunto proprio per spiegare che provavano a far qualcosa per fare un po' questa sorta di marcia indietro su tutta questa spiacevole vicenda. Io vorrei chiudere su questo, Luigi Gabriele. Mi pare che però la maggioranza dei consumatori sia apatica, o perché non vale la spesa, non vale l'impresa, diciamo, sono pochi soldi, uno dice: ma perché mi devo perdere una giornata di lavoro, come diceva prima l'avvocato Bertucci, oppure proprio perché non lo sanno, non se ne sono accorti, sono rimasti ignari. Tu dicevi prima, ci sono una 60 milioni di linee tra fisso e mobile, i rimborsi sono molto meno di questo. Un minuto. Sono esattamente 50 milioni di linee, perché sono 43 milioni di linee mobili e 16 milioni di linee fisse, soltanto che per le linee mobili ormai possiamo dire che non si può fare nulla, perché probabilmente i consumatori saranno stati informati in un momento in cui erano disattenti, avranno ricevuto un messaggio che gli indicava che stavano cambiando le condizioni tariffarie, le hanno accettate, ahimè purtroppo sono cambiati 30 giorni, ma non è più possibile effettuare una fatturazione ridotta in questi termini, in termini temporali. Come diceva la Bertucci, nel nostro paese, anche ad esempio per la prescrizione, tu la devi eccepire, devi fare qualcosa di formale. Lo stesso vale anche per chi